Mediaset. Approfondimento settimanale sul lavoro, Metropoli Controllo. Un programma di Cristiano Muccini e Andrea Pavin in collaborazione con Amisnet. Allora, un saluto a tutte e tutti dalla redazione di Mediaset. Concludiamo con oggi la seconda puntata, il ciclo di due puntate su mobilità e spazio urbano. Con noi in studio Alfonso Spina, che ci ha accompagnato anche nella precedente trasmissione. Parleremo, quindi andremo a concludere il discorso sulla mobilità. Abbiamo parlato espressamente per lungo tempo di car sharing. Andremo a vedere quali sono le esperienze perlomeno più significative in Europa, che cosa ha significato e significa in alcuni versi, per alcuni versi, la privatizzazione del servizio pubblico, chiaramente in questo caso delle ferrovie nazionali. E niente, concluderemo questo secondo ciclo dagli studi di Amisnet. Cristiano e Alfonso alla voce e Andrea in regia. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E voi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là. E questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria. L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Allora, cominciamo questa seconda puntata su mobilità e spazio urbano. Presentiamo in studio Alfonso Spina, architetto, studioso di riqualificazione e recupero insediativo presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia di Roma. Abbiamo parlato molto nella precedente puntata di car sharing. So che hai molto altro materiale in proposito. Volevo farti un paio di domande in merito alla mobilità in Europa. Dalla tua esperienza personale, i modelli, faccio due esempi su tutti, svizzeri e olandesi, chiaramente si differenziano in maniera molto netta da quello italiano, però secondo te quali sono le radici di tale differenza? Beh, parlavamo prima anche riguardo al libro di Colin Ward, Dopo l'automobile. Sì, Colin Ward, ho dimenticato di dire la casa editrice, che è la Eleutera. Sì, che insomma questa differenza di concezione dello spazio deriva proprio da un motivo politico, e cioè che Svizzera e Paesi Bassi hanno una storia di tipo confederativo, non hanno una storia di nazionalizzazione forzata come invece hanno avuto altri paesi. Lo riscopriamo anche nel libro di Colin Ward, come dire, rispetto a grosse megalopoli come Parigi, Londra o anche Milano, sono comunque città queste che hanno avuto tutte le vie di comunicazione accentrate verso il loro, come dire, la loro funzione appunto di città-stato, mentre, come appunto stai dicendo tu, la Confederazione Elvetica oppure i Paesi Bassi hanno avuto una importanza, cioè tutte le città di queste due nazioni hanno un'importanza, e quindi si è cercato, giusto, no? È quello che stai dicendo, si è cercato di non tagliar fuori, come dire, anche la provincia più lontana dai servizi di comunicazione. Certo, sia a livello di comunicazione che a livello di produzione, sia materiale che materiale, è molto importante la distribuzione omogenea o tendenzialmente omogenea nel territorio, quindi non hai degli spazi che sono completamente sottoutilizzati oppure mal serviti, invece delle città fortemente accentratrici. Certo, e che comunque aggiungiamo anche che per esempio in Svizzera, e questo lo vediamo sempre dal libro e comunque da un'esperienza diretta di Colin Ward, appunto, non si cerca di tagliare quei collegamenti che sono ritenuti marginali rispetto a città più importanti, quindi si cerca di raggiungere sempre anche la provincia più lontana, non escludendo nessuno. E chiaramente da ciò che cosa deriva anche che la Svizzera o piuttosto i Paesi Bassi sanno che il servizio pubblico verso la provincia più lontana è chiaramente meno frequentata e quindi è un po' a perdere, ma che comunque è riconosciuto come un servizio pubblico e che quindi questa ha la sua utilità. Sì, un servizio pubblico che non può insomma costringersi a essere sempre in guadagno, in attivo, perché insomma l'esternalizzazione della segregazione sociale è un costo che nell'economia di mercato adesso non è previsto, però in realtà diciamo l'integrazione attraverso i mezzi di comunicazione è una qualità comunque, certo. Anche se in questo momento non è monetarizzata. E chiaramente le privatizzazioni vanno in maniera assolutamente contraria a quanto stiamo dicendo. Per riallacciarsi al discorso del car sharing, vediamo quindi che tipo di iniziative sono state prese in Europa. E partiamo dall'Italia, che insomma è uno dei paesi meno virtuosi, però è quello dove abitiamo. In Italia l'iniziativa è stata presa dal Ministero dell'Ambiente, che è un ministero con dei fondi molto, molto limitati, e che ha istituito un consorzio di enti locali che si chiama Iniziativa Car Sharing. Il sito è www.icscarsharing.it. E tramite questo consorzio di enti locali ha finanziato nelle grandi città italiane automobili, un parco auto ha finanziato tramite questo soggetto politico, ICS Car Sharing, ha finanziato nelle città italiane dei programmi di car sharing per un totale di 310 vetture, e in questo momento, ad esempio, no, a dicembre 2006 abbiamo 8.000 utenti più o meno. Ripeto il sito www.icscarsharing.it. Dunque, a Roma la situazione è diciamo abbastanza negativa per adesso, perché il servizio è attivo con sole 10 vetture nel terzo municipio ed è stato diciamo girato a una municipalizzata che è l'ATAC. E c'è da dire pure che il Comune di Roma non si è impegnato a reintegrare i fondi concessi dal Ministero dell'Ambiente, per cui è molto, diciamo, molto limitato, anche se c'è in previsione l'allargamento del servizio al secondo, al primo e al diciassettesimo municipio con l'aumento della flotta. quindi per funzionare questo servizio di car sharing, che cosa deve esistere? Deve esistere la gestione del servizio, degli spazi di parcheggio, delle autovetture. È necessario un servizio di prenotazione che tende a diventare sempre più automatizzato, quindi tramite telefono mobile o internet o telefono normale. È necessario poi dotarsi di delle carte di accesso sul modello delle carte ricaricabili della posta, per cui si entra dentro la vettura, si striscia la carta dentro la serratura, si esce, si ristriscia e praticamente viene scalato dal budget l'effettivo utilizzo a seconda delle tariffe chilometriche e orarie. Molto interessante il fatto che i primordi di questo servizio vengono proprio dalla Svizzera. E infatti la prima esperienza di automobile collettiva in Europa di questo tipo, cioè con prenotazione, è del 1948. Una cooperativa con nome tedesco abbastanza difficile, Selbstfahrer Gemeinschaft, sicuramente pronunciato male, iniziò nel 48 appunto questo servizio, composta dagli utenti, questa cooperativa, che non avevano le basi economiche per mettersi il mezzo proprio, si sono organizzati, hanno comprato una serie di automobili e se le sono gestite per 50 anni. La cooperativa ha chiuso nel 98. Camisa bien planchada, ya me lo decía mi madre, te vas a casar con la más tonta, chiquillo. Esto se va a acabar, es que un día de esto te la voy a cortar. ¡Lorena! ¡Bobby! Se separan a gritos por todo y un poquito. Allora, per Colin Ward, quanti automobilisti entusiasti conoscete? Questa è la domanda che ci pone. A parer suo sono sicuramente poche le categorie che possono, come dire, ritenersi soddisfatte dell'automobile. Ci sono gli amatori, eccetera, e poi c'è quella, come dire, quel filone di giovani maschi individua in questa specie, per i quali la guida è un simbolo non solo di potenza e di virilità, ma di fuga dalle costrizioni della famiglia. Sicuramente, aggiunge Colin Ward, la stragrande maggioranza dei proprietari d'auto non sono degli entusiasti e considerano i motori un male necessario. Può darsi che i produttori si siano lasciati abbindolare dagli agenti pubblicitari e dall'immagine di velocità, libertà, lusso e potenza sessuale, ma personalmente afferma di non conoscere nessun utente d'auto che ne parli in questi termini. Tutti quelli che gli è capitato di incontrare sono assolutamente consci del fatto che pagano ad alto prezzo il lusso di un mezzo di trasporto proprio. Allora abbiamo uno studio, uno degli ultimi studi fatti sul car sharing, che a nome di Susan Shaheen, ricercatrice a Berkeley in California, che è del 2006, si può trovare su un sito molto interessante che è www.innovativemobility.org. Questo studio traccia un po' le fila dell'esperienza di car sharing degli ultimi anni. E molto interessante la questione che riguarda la liberazione dello spazio urbano. E infatti sono stati raccolti dei dati da 33 paesi in tutto il mondo che hanno dei, presentano delle esperienze di questo tipo, e sono state fatte delle medie, quindi si vede ad esempio che in Europa il numero di veicoli rimpiazzati da, da un veicolo car sharing varia dai 4 ai 10, in Nord America addirittura dai 6 ai 23, e poi ci sono altissime percentuali di vendita del mezzo o di non acquisto del mezzo a seguito della partecipazione a un programma di car sharing. Continuiamo con Colin Ward. In un capitolo del suo saggio, appunto, si parla della possibilità di viaggiare gratis. Nell'affrontare il problema dei trasporti, come per qualsiasi altra cosa, le idee vanno e vengono come maree. Viaggiare gratis è una delle soluzioni proposta da qualche gruppo estremista, poi presa in seria considerazione dai politici e quindi respinta, solo per riaffiorare nuovamente quando qualche nuovo fattore, come la motorizzazione urbana, la crisi petrolifera e ora l'effetto serra, viene introdotta nel dibattito. A intervalli regolari qualcuno intraprende lo studio dei problemi dei trasporti e ne emerge con l'idea che la soluzione più sensata sia di considerarli un servizio pubblico e non di dare un costo a ogni singolo trasferimento. Allora Alfonso, in questo saggio di cui stiamo estraendo alcune parti, all'inizio si parla anche del fatto innegabile che ad un certo punto l'automobile è stata, come dire, una di quelle innovazioni che ha permesso un utilizzo, come dire, che ha liberato l'uomo perlomeno dagli spostamenti. E però chiaramente l'utilizzo di massa di questo mezzo ha limitato poi di fatto la libertà, come la sta limitando. Cioè l'autovettura, l'automobile oggi è un fattore ancora di libertà? Dipende dalla cultura di chi interpreta, dall'interpretazione di libertà. L'interpretazione di libertà dipende dalla cultura. Quindi se del soggetto, quindi se il soggetto, se l'individuo pensa che una sua libertà è muoversi in maniera più estesa e più veloce possibile, probabilmente sì, però a questo punto è proprio il concetto di libertà che non sarebbe un po' da ripensare. Viene minato alle fondamenta, certo. Sì, nel senso che del resto come il concetto di organizzazione statale o il concetto di servizio pubblico. In un certo senso pensare che la mobilità è un servizio pubblico ti porta pure a pensare che forse è necessario un sistema centralizzato e ad esempio questa è una cosa che è un po' un problema per chi ad esempio si definisce socialista libertario o anarchico, perché in qualche modo allora tu riconosci che ti serve un'organizzazione che in qualche modo condensa e centralizza. Paraime una farmacia e ponerme ciego la feta. Me estoy quitando, mentira que te he visto yo pa'l polígono. Me estoy quitando, que no era pa' mí, que era pa' otro que también se está quitando. Estoy buscando al doctor pa' que me dé la receta. Pa' olvidarme de tu amor y no volverme majareta. Me estoy quitando, que no, me estoy quitando, que sí, solamente me pongo. Prima, mentre parlavamo in privato, mi parlavi del modello borbonico, dell'attualità del modello borbonico. Che cosa intendi? Beh, i Borboni, diciamo che secondo la demagogia risorgimentale sabauda e poi italiana sono additati come il peggio dell'organizzazione statale possibile. In realtà sono stati i primi a costruire una ferrovia e quindi un mezzo che magari al tempo non era esattamente popolare, però che aveva tutte le possibilità per esserlo, e hanno implementato una rete che poi comunque sia su cui è stato lavorato anche da parte dei piemontesi in tutto il meridione, che adesso è praticamente scomparsa. Una rete che permette, ad esempio, in Salento, in Sicilia, di unire tantissimi nuclei insediativi urbani, che però pare che, almeno secondo i nostri modelli di sviluppo, i nostri modelli di mobilità adesso, sembra che questa rete importantissima sia obsoleta. In realtà ha delle enormi potenzialità per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Cioè quello un po' che è presente tra l'altro in Val di Susa, come il fatto che comunque sono già presenti delle reti ferroviarie, ma cercano di essere implementate in maniera assolutamente poco intelligente, proprio perché si cerca di specularci di sopra. Certo, anche perché spesso, voglio dire, non è necessario, può non essere necessario andare a 200 km orari piuttosto che a 120, cioè voglio dire, può non servire a nessuno in realtà. Certo. A questo punto ti giro io una domanda, ti faccio una domanda che riguarda l'utilizzo di strumenti alternativi per muoversi. Mi sembra che tu hai avuto un'ottima esperienza a seguito dell'utilizzo che hai fatto di una bicicletta smontabile, di bicicletta in generale, cioè so che tu utilizzi il mezzo a due ruote per muoverti nella città. Puoi dire qualcosa riguardo? Sì, guarda, nello specifico io utilizzo la bicicletta, tra l'altro in una città particolarmente complessa per quanto riguarda l'utilizzo di questo strumento, che è Roma, cercando di utilizzarla un po' come si fa in altre parti d'Europa, quindi cercando di avere... Cioè ti immagini di stare a Ferrara o a Bologna? No, non me lo immagino. C'è proprio. È ovviamente difficile immaginarselo, però è chiaro che cerco di fare della bici un utilizzo in una città che comunque respinge questo utilizzo della bici, e non per, come dire, per puro feticcio dell'utilizzo della bicicletta, proprio perché non c'è una cultura da noi, ma qui sto dicendo delle cose abbastanza scontate. Sì. È chiaro che il futuro della mobilità personale dovrà, a parer mio, andarsi a scontrare con la mobilità collettiva, ossia una limitazione della mobilità nel privato, quindi utilizzando automobili, va sicuramente limitata, anche perché non ci sarà, io credo, a breve più spazio per utilizzare autovetture private, e si dovrà per forza cominciare a condividere dei mezzi di spostamento collettivi. E ad esempio tu hai fatto delle esperienze riguardo al trasporto multimodale, che sarebbe carico di bicicletta su mezzo pubblico e scarico di... puoi dire qualcosa? Sì, in merito a questo è chiaro che voglio dire, più che stare a costo del singolo utente, dovrebbero essere predisposte dalle istituzioni comunali, quindi dei mezzi che possano agevolare il carico e scarico appunto di un mezzo come la bicicletta sui mezzi pubblici. Ma d'altro canto, se noi partiamo dal presupposto che caricare una bicicletta su un treno oggi in Italia ha il costo di 3,50 euro, vediamo che le istituzioni politiche o comunque chi ci governa non vuole andare dalla parte di chi intende muoversi a impatto zero. È ovvio che, come tra l'altro avviene in maniera assolutamente normale in molti altri paesi d'Europa, non possono essere previsti dei costi per chi si carica appunto la bicicletta sui mezzi pubblici. È anche vero, d'altro canto, che però non ci sono spesso i mezzi pubblici già solo per l'utilizzo delle persone. Eh sì, certo, già, cioè non c'entra pure una bicicletta oltre alle persone. Ad esempio è molto interessante un'infrastruttura legata all'utilizzo della bicicletta a Trondheim, dove per superare un dislivello dentro il centro urbano è stato realizzato un bici lift per caricare la bicicletta, che è regolarmente riscaldato in inverno per evitare il fatto che si ghiacci. Eccellente. Warm goodbyes all around, I'll see you again. When life leaves us wondering just what is to be. Trash heaps and fairy tales, my memories of thee. Allora andiamo a concludere questo ciclo di due puntate su mobilità e spazio urbano. Abbiamo parlato un po' di tutto, di car sharing, abbiamo parlato di un saggio in materia dopo l'automobile di Colin Ward, abbiamo parlato intensamente con Alfonso di quali sono, soprattutto del car sharing, comunque di quali sono, di quali strade si aprono per una mobilità collettiva. Alfonso, ti faccio brevemente, anche perché siamo in chiusura, l'ultima domanda: qual è il futuro della mobilità a parer tuo in Italia? Cioè, non ho veramente nessun tipo di idea a riguardo. Forse il futuro è provare a immaginarselo tutti. Certo, e soprattutto se poi andiamo a vedere che appunto dallo stesso articolo di carta che abbiamo visto la scorsa volta, se da una parte si parla di megalopoli padana, una megalopoli che è assolutamente e intensamente inquinata, dall'altra parte si aprono tranquillamente i saloni di Francoforte e comunque i maggiori saloni delle automobili, vediamo che ancora oggi, nonostante tutti i gravissimi problemi che ci sono, si cerca di andare in una direzione assolutamente contraria a quello in cui dovrebbero aspirare i governi per il bene supremo dei cittadini. Con questo chiudiamo la trasmissione, saluto Alfonso, speriamo che ci sia di nuovo con noi in studio e diamo appuntamento alla prossima puntata. Ende. Denn der Untergang ist nicht mehr.